5C. Ascolta e rispondi. Perché non leggete? Leggeremmo, ma non abbiamo gli occhiali. Perché non scrivete a casa? Scriveremmo, ma non abbiamo tempo. Perché non mettete tutto in ordine? Metteremmo tutto in ordine, ma abbiamo cose urgenti da fare. Perché non prendete un caffè con noi? Prenderemmo un caffè volentieri, ma ne abbiamo già bevuti 3. Perché non rispondete alle lettere? Risponderemmo, ma ora è tardi, dobbiamo uscire. Perché non attendete ancora? Attenderemmo, ma il treno partirà fra 10 minuti.